ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Per fortuna che ho la bicicletta, almeno mi allontano un po' dall'autostrada del sole, o dal raccordo anulare, o dalla fila nel metro. Tornerò solo quando sarò stanco un bel po'. Buon pomeriggio, buona domenica. C'è voglia di bici e questa voglia di bici cresce per spostarsi in città, per fare esercizio fisico, per svagarsi e perché no, magari quest'anno anche per andare in vacanza. Con la fase 2 tantissimi hanno ripescato le proprie biciclette lasciate in cantina, tantissimi stanno prendendo d'assalto i negozi di biciclette che hanno potuto riaprire finalmente questa settimana dopo 2 mesi di lockdown, sia per la riparazione sia per la vendita. Ebbene, siamo andati proprio a fare un giro per Roma, abbiamo scoperto come davvero questa voglia di bici ci sia tra le persone, anche perché, lo abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, la bicicletta è il mezzo che può garantire il giusto distanziamento sociale senza portare con sé tutta un'altra serie di problemi che ha l'auto privata. Dunque un mezzo, per chi può, per chi se la sente, ideale per gli spostamenti, per i piccoli spostamenti in città. Insomma, soprattutto in città, risparmio di tempo, di denaro, meno stress, e con le bike anche meno fatica rispetto alla bici tradizionale. E tra l'altro il governo va ben chiaro, perché tra poco potremo anche usufruire di incentivi governativi. Allora sentiamo le voci delle persone che abbiamo raccolto per Roma. Beh, adesso è la panacea, oggi siamo felici perché si spera anche di poter circolare in maniera più fluida. L'ideale sarebbe avere un sistema di piste un pochino ciclabili, però necessità virtù. Lei perché è qui, per far aggiustare la bicicletta? Sì, per fargli un check-up per fargli check-up in modo da poi da utilizzarla sia nel lavoro e sia nel fine settimana. Io per comprare la bicicletta a mia figlia e per far vedere la mia, che ha dei problemi ai freni. Ha deciso di usare la bicicletta? Sicuramente sì, sia per andare al lavoro quando riprenderò, ma anche per gli spostamenti, per uscire con le bambine. Ho acquistato una bici elettrica? Sì, ho acquistato una bici elettrica perché comunque alla fine per muoversi qua a Roma adesso, con questo periodo, penso che sia la soluzione ideale. È da un mese che la uso, mi trovo abbastanza bene. Non avevi mai usato la bici per andare al lavoro? No, mai. Avevo lo scooter, l'ho dato via perché comunque tra spese e cavoli alla fine ho preferito prendere un elettrico, è una cosa molto comoda. Il pensiero l'hai avuto anche perché c'è questa emergenza sanitaria, quindi sì, per evitare... Sì, oppure per questo, per evitare i mezzi, non venire al lavoro con gli autobus, con le metro che sono molto affollate. Qual è la tua distanza a casa lavoro? A casa lavoro sono nato 10 km. Quanto impieghi? Quando metto l'elettrico una ventina di minuti, quando vado normale 35. Con i mezzi quanto ci impiegavi? Con i mezzi ci metto un'ora. Con la macchina ci mettevo 45, quasi un'ora pure con la macchina, col traffico. Più trovare parcheggio, fare tutte queste cose qua. Con la bici arrivo al negozio e la metto dentro e ho fatto. Evito un po' di multe e di tutte queste cose qua. La carichi, dura 100 km di autonomia, quindi ci faccio più di una settimana. Serve il distanziamento sociale. Affidiamoci al colpo di pedale. La bici è la salvezza delle città. Veloce si sposta di qua e di là. Alessandro Ricci, la fase 2 per il verso giusto. E questa è la prima quartina della nuova collezione del nostro ciclo poeta. Adesso andiamo a darvi il resoconto del nostro giro per i negozi di biciclette di Roma. Siamo qua nel, insomma, uno storico negozio di Roma, Lazzaretti, con Simone Lazzaretti. Vedo un via vai di persone interessate all'acquisto, oppure anche alla riparazione, al check-up della propria bici. Tanta gente, vedete? Sì, noi abbiamo riaperto l'officina da lunedì praticamente, e da subito si sono riversate una quantità di ciclisti con la voglia di andare in bicicletta, ma anche per utilizzare la bicicletta per spostamenti, per andare al lavoro. Da quando abbiamo aperto poi ufficialmente siamo stati presi d'assalto praticamente. Adesso fortunatamente siamo un po' in difficoltà, ma cerchiamo di accontentare tutti quanti. Cosa chiedono le persone soprattutto? Beh, la maggior parte delle persone chiedono aiuto, chiedono assistenza alle proprie biciclette, molti le hanno riprese dalle cantine, le hanno tirate fuori, le vogliono risistemare, anche altri che vogliono utilizzare la bicicletta per andare al lavoro, e quindi fortunatamente anche nuovi acquisti. qualcuno che chiede, ma insomma, quale bici per esempio può essere più adatta per Roma? Noi vediamo che c'è molta voglia di utilizzare la bicicletta per Roma, ma c'è anche un pochino di freno che è dovuto alla difficoltà di utilizzare la bicicletta in una città come Roma, che potenzialmente potrebbe essere perfetta, ma effettivamente di spazi per le biciclette dedicate non ce ne sono. Però la voglia c'è. Se ci fosse un pochino di aiuto, un pochino più di attenzione, Roma diventerebbe una grande città da questo punto di vista. Di bici elettriche ce l'avete? Sì, adesso in questo momento la maggior parte delle biciclette che vengono richieste sono proprio a pedalata assistita e stiamo aspettando anche questi benedetti incentivi, perché molti adesso sono frenati, stanno capendo cosa vogliono, cosa comprare, per poter poi poter usufruire anche degli incentivi. Ha una signora, un signore di mezza età, no? Che vuole pedalare a Roma per i propri spostamenti, insomma non è che abbia tutto questo allenamento. Voi che cosa consigliate? Come orientarsi? Beh, intanto sicuramente bisogna capire bene che uso bisogna farne della bicicletta, perché la bicicletta è fatta di tantissimi segmenti, anche alcuni molto poco differenti uno dall'altro. Per esempio una signora che vuole usare la bicicletta come mezzo di trasporto, come spostamento, casa lavoro, casa ufficio, oppure anche se banalmente andare a fare la spesa, sicuramente una bicicletta urban, magari con urban vuol dire con il portapacchi, con il cestino, con i parafanghi, le luci, possibilmente non con la canna alta ma con la canna gentile da donna. Magari anche elettrica può essere? Sì, diciamo che Roma è una città perfetta per una bicicletta elettrica, perché con pochissimo sforzo si riescono a fare anche le salite, i sette colli di Roma senza sudare volendo. Di cosa consigliate? Avete anche qualche dispositivo? Per i furti consigliamo di non acquistare semplici catene, ma di acquistare catene un po' più robuste, in acciaio temperato che è difficile aprire magari anche con una semplice crick, ma ci sono alcune tipologie di catene fatte apposta che tra l'altro si trasportano in bicicletta in maniera molto facile, quindi senza nessun problema. Fascia di prezzo di un e-bike e fascia di prezzo del monopattino elettrico, che vedo che insomma avete anche quelli? Biciclette elettriche, diciamo, per un prodotto che per noi rientra nella decenza, quindi per avere anche un'assistenza futura e una gestione nel tempo della bicicletta, che è molto importante, la bicicletta non può costare sotto i 1000 euro, può arrivare a cifre chiaramente stratosferiche. Poi ci sono dei motori integrati nel movimento centrale, tipo, faccio un esempio, come il sistema Bosch, che all'incirca partono dai 1700, 1800, 2000 euro in su. Invece per i monopattini? I monopattini invece noi abbiamo praticamente un modello solo che riusciamo a gestire anche molto bene con l'assistenza di cambi, costa 600 euro. Durata della batteria della bici elettrica e del monopattino? Variano più o meno dai 50 km ai 150 a seconda della bicicletta che si acquista, e il monopattino più o meno una quarantina di chilometri. Grazie alla Simone Lanzaretti. Grazie a voi, un saluto a tutti e buone pedalate. E continuiamo il nostro giro per i negozi di biciclette di Roma, andando a curiosare in zona Prati Cristiano Perazza di Bike and Ride. Cristiano Perazza di Bike and Ride, un negozio di bici ma non solo, zona Prati di Roma, e già si vedono insomma tantissime persone che vengono a chiedere informazioni, che magari vogliono acquistare o far riparare la bici. Ecco, c'è molto movimento. Sì, assolutamente. Noi stiamo lavorando con l'officina da ormai una quindicina di giorni e abbiamo ricominciato con anche la possibilità di vendere da ieri, e comunque abbiamo notato che insomma un po' il post Covid, o comunque quantomeno diciamo la seconda fase 2, e un po' anche la stagionalità del periodo appunto dell'anno, stanno portando le persone a informarsi, a chiedere, e soprattutto stiamo verificando che i nuovi clienti sono persone nuove che si avvicinano per la prima o per la seconda volta alla bicicletta, non sono quei clienti che avevamo prima, che usano la bicicletta da tempo e che la usano per, diciamo, per sport o per divertimento, ma che comunque, quindi stiamo dando moltissime informazioni in quest'ottica. Quali sono le domande che vi fanno, quelle più ricorrenti? Sicuramente ci chiedono tantissimo delle biciclette a pedalata assistita, quindi vogliono avere informazioni, capire un po' i prodotti, quanto costano, caratteristiche un pochino delle biciclette elettriche di oggi a pedalata assistita, che sono molto cambiate, per cui diciamo la nuova tecnologia dell'ultimo anno, degli ultimi due anni, ha portato la bicicletta a pedalata assistita a garantire sia l'aiuto per la salita del ciclista, ma anche a garantire comunque un'efficienza di pedalata simile alla pedalata della bicicletta muscolare. Chiedono moltissimo anche degli incentivi, quando arriveranno, come si possono ottenere e quali biciclette sono ovviamente, diciamo, rientrano nella categoria della manovra economica. Possiamo sfatare il mito che la bicicletta pedalata assistita è una bicicletta per le persone anziane? Allora, sicuramente quando abbiamo cominciato a vendere le prime biciclette elettriche 3, 4, 5 anni fa, ovviamente la prima clientela era quello che poteva sembrare un po' più anziano, un po' più age del, diciamo, dell'attuale. Oggi la bicicletta pedalata assistita la chiedono anche molto i giovani, perché comunque può diventare un sostituto del motorino, della macchina o del mezzo pubblico, e per cui diciamo che avere un piccolo aiuto quando si deve andare magari vestiti da lavoro oppure tornare a casa con una salita comunque può aiutare. E poi comunque la pedalata assistita non è un motorino, per cui in realtà comunque bisogna sempre girare le gambe. In base poi alla, diciamo, all'aiuto che si sceglie, la bicicletta ci supporta più o meno in maniera efficace. Dei modelli smart, insomma, sono anche molto tecnologiche. Assolutamente sì, perché per esempio la Bosch, per esempio, offre una funzione e mountain bike nella pedalata assistita, in cui il motore, diciamo, viene aiutato in base alla reale necessità del momento del ciclista. Per cui diciamo che oggi non sono pochi quelli che cercano un motorino camuffato da bicicletta per evadere la targa o le responsabilità del motorino. Fate anche noleggio, quindi magari delle persone che dicono vabbè, proviamo, no, intanto ad usare la bici a Roma. Esatto, noi abbiamo cominciato già da un anno a gestire appunto una flotta di biciclette elettriche, proprio perché appunto crediamo moltissimo nella mobilità, diciamo, urbana con la bicicletta, e poi soprattutto perché magari la bicicletta elettrica a noleggio può diventare inizialmente anche un mezzo di prova. Io provo per 5 giorni, andare al lavoro tutti i giorni con la bicicletta a pedalata assistita, dopodiché valuto l'acquisto, perché comunque insomma è sicuramente un acquisto importante, anche se oggi i prezzi si sono abbastanza, diciamo, livellati, però tendenzialmente per comprare un prodotto buono sicuramente c'è una spesa importante, e magari l'acquisto, il noleggio appunto antecedente può creare comunque un'esperienza per capire e valutare la possibilità. Bici pieghevoli invece? Allora, bici pieghevoli costano un pochino di meno, perché ovviamente non hanno il motore centrale, ma non mettono il motore nella ruota, hanno batterie inferiori come capacità in termini di watt, per cui in realtà hanno meno autonomia in termini di chilometri. Il mercato del pieghevole più o meno offre prodotti molto validi a partire dai 1200 euro. Grazie a Cristiano Perazza di Bike and Ride, aspettiamo insomma anche questi incentivi e vediamo, faremo un bilancio della situazione anche più in là. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a te Alessandra, buon lavoro. E dunque tanta voglia di tornare a pedalare, in attesa anche degli incentivi governativi e con un occhio anche alla prossima estate, in cui il cicloturismo potrà giocare un ruolo chiave, ma ne parleremo più avanti. Buona domenica, buon pomeriggio, grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica e buona bici a tutti.